inizia il secondo appuntamento della settimana con la voce di Marco Gravelli su Rock FM. Lo spazio è quello di Hard & Heavy, offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, nonché i saluti e ringraziamenti a voi in primis e al nostro autore Simone, che come primo personaggio di questa nostra tracklist, che inizia come sempre nella prima parte legata al passato, ci propone Ian Gillan, celebre e storico cantante ormai 62enne dei Deep Purple, che ha alle spalle anche una buona carriera solista oltre ad aver cantato nell'album Born Again dei Black Sabbath. Questo accadeva nel 1983. Nel suo passato c'è anche la partecipazione al famoso musical Jesus Christ Superstar come interprete principale nella prima, diciamo, la prima tiratura di quell'opera, che poi è stata ristampata e rifatta anche da altri vocalist. Per quanto riguarda la sua carriera solista, comincia nel 76, tre anni dopo aver abbandonato i Deep Purple, con la pubblicazione di Child in Time a nome di Ian Gillan Band. Con questo moniker ha pubblicato altri due album. Nel 78 decide di adottare il nome soltanto di Gillan, e con questo ha pubblicato 6 album in 4 anni, che sono sempre arrivati ai primi posti delle classifiche inglesi, dei quali sono da segnalare due lavori, Glory Road e Future Shock. La carriera solista si interromperà nel 1982 per ripartire nel 1990. Ultima uscita solista è stata Gillan's Inn, avvenuta lo scorso anno. Si tratta di una selezione dei brani migliori della sua discografia, con la presenza di numerosi e famosi special guest. Oggi abbiamo scelto un album doppio, un vinile doppio, Double Trouble, ed è del 1981, dove alla chitarra c'è Jenny Gers, che nel 1990 è poi entrato a far parte degli Iron Maiden. Il pezzo prescelto è Man of War, Ian Gillan. Inconfondibile la sua voce, Ian Gillan, con l'album Double Trouble, dove vi sono anche diverse tracce live. In questo lavoro c'è Jenny Gers alla chitarra. Appunto abbiamo ascoltato Man of War come brano, da un Deep Purple ad un ex Deep Purple che non andavano d'accordo, tra parentesi, perché la prossima band è quella creata dopo la sua dipartita dai Deep Purple da Ritchie Blackmore, cioè l'arcobaleno, i Rainbow. Nata nel 1975, in quell'anno Blackmore nota un gruppo che si chiama Elf, dei quali resta impressionato, soprattutto dal cantante Ronnie James Dio. Pertanto rileva tutta la band, eccetto ovviamente il chitarrista, e cambia il nome degli Elf in Rainbow. L'esordio risale allo stesso anno con l'omonimo album, seguito poi nel 76 da Rising, ed entrambi arrivano al numero 11 in classifica in Inghilterra. Nel 78 arriva Long Live Rock and Roll, che gli permette di aumentare ancora la propria notorietà. Nel 79 se ne va Ronnie James Dio, entra al suo posto Graham Bonnet alla voce. Con lui incidono l'album dal titolo Down to Earth. Nuovo album e nuovo cantante. Infatti per il sesto, settimo e ottavo album ci sarà il bravissimo Jolly Turner. Nell'84 Blackmore scioglie la band per ritornare nei Deep Purple. Nel 95 se ne va di nuovo dai Deep Purple e arriva un altro album per i Rainbow dal titolo Strangers in Household, con alla voce Dougie White, che attualmente è il cantante di Malmsteen. Nel 98 Blackmore intraprende una nuova carriera sotto il nome di Blackmore's Night, con musica acustica e medievale insieme alla moglie Candice Knight, e proprio pochi giorni fa hanno pubblicato un nuovo album dal vivo sotto la denominazione appunto di Blackmore's Night. Ma dall'album Long Live Rock and Roll oggi andiamo a ritrovare e riascoltare i Rainbow con le note di Lady of the Lake. Shadow is covered. erano le note di Lady of the Lake dall'album Long Live Rock and Roll per la formazione dei Rainbow, ed è tempo invece di ritornare alle cose più recenti, come ad esempio questo album uscito a fine settembre, settimo lavoro per la power metal band tedesca dei Primal Fear, del bravo cantante Ralph Scheppers e del bassista Matt Sinner, gruppo che ha suonato qui in Italia per due date di supporto agli Udo a metà ottobre. Album che gode di un'ottima produzione e di ottime canzoni, che vede la presenza come special guest in un brano che era anche il singolo della cantante olandese degli Epica, Simone Simons. Andiamo a proporre ed ascoltare il brano che apre l'album, Sign of the Fear, dall'album New Religion Primal Fear. Dall'album New Religion, Sign of Fear, le note che aprivano questo lavoro per la formazione dei Primal Fear, album uscito alla fine del mese di settembre. Molti anni fa invece usciva questo lavoro per i Black and Blue, visto che me li avete richiesti, eccomi pronto a proporli. Band americana con 4 album in studio pubblicati tra il 1984 e l'88, e poi si sono ufficialmente sciolti nel 2004 quando il cantante Jamie St. James è entrato a far parte dei Warrant. Nascono nell'81 grazie ad un demo che coglie l'interesse della Metal Blade, li fa partecipare alla compilation Metal Massacre del 1982. Successivamente registrano un EP prodotto da Don Dokken e da Michael Wagner, che gli valse un contratto con la Geffen Records, oltre a suonare di spalla gli Whitesnake. Nell'84 arrivano all'esordio con l'omonimo album, che gli valse date di spalla a Ronnie James Dio, Aerosmith e nuovamente agli Whitesnake. Per il terzo album, Nasty Nasty, che come sonorità andò contro le richieste dell'etichetta, c'è da segnalare che il produttore fu Gene Simmons dei Kiss, che contribuì a comporre anche qualche canzone, cosa che accadde anche per il quarto album In It del 1988. Nonostante tutto il successo non arrivò mai, pertanto nell'89 la band decide di sciogliersi. I Black and Blue si riunirono nel 1998 in occasione di una data dal vivo che fu registrata per il CD One Night Only. Seguirà un altro live nel 2001 e la pubblicazione di diverse raccolte. L'ultima uscita quest'anno e si intitola Rarities. Ebbene, dal primo vinile, dal loro primo album, Black and Blue, questo è il pezzo che apriva il lavoro, The Strong Will Rock. Oh, The Strong We Rock, pezzo d'apertura dell'album omonimo, d'esordio della formazione dei Black and Blue, che abbandoniamo, chiudiamo la parte, diciamo, del passato con i Virgin Steel, che al pari dei Manowar sono grandi esponenti di un certo tipo di epic metal. Provengono dall'America, esattamente da Long Island. Il leader è il cantante David DeFace, nati nel 1981, creati dal primo chitarrista Jack Starr, che lascerà la band nell'84 dopo due album a favore dell'attuale chitarrista Edward Pursino. L'esordio arriva nell'82 con l'album Virgin Steel One, che curiosità fu anche la prima pubblicazione dell'allora neonata Music for Nation. Dopo l'ottimo secondo album Guardians of the Flame, arriva l'abbandono del chitarrista Jack Starr per divergenze musicali e, come vi dicevo, fu sostituito da Edward Pursino, che era compagno di scuola di The Face. Il terzo album, Noble Savage, è considerato da molti il loro capolavoro e sarà ristampato il prossimo 4 febbraio dalla Docker One. La loro notorietà è raggiunta sino in Europa e grazie a quest'ultimo, a quest'album, intrapresero un tour europeo proprio a supporto dei Manowar e Black Sabbath. Dopo un periodo un po' deludente, la band torna alla ribalta con il doppio CD The Marriage Between Heaven and Hell, parte 1 e parte 2, che ne restituisce notorietà. Successivamente il sound diviene, oltre che epic, anche sinfonico cinematografico. Il loro ultimo album risale al 2005, Vision of Eden. Oggi andiamo sull'album Guardians of the Flame, c'era ancora Jack Starr alla chitarra, e li ascoltiamo con Hell or High Water, la formazione è quella dei Virgin Steel. Keep it to me. questo ballatone intitolato Why. Abbiamo dato il via alla seconda parte del nostro appuntamento di questa sera di Hard and Heavy. Una seconda parte vista l'uscita di diversi prodotti differenti di stile musicali del campo e del panorama Hard and Heavy italiano. Abbiamo deciso con Simone proprio di dedicare questa seconda parte tutta riproponendovi le cose migliori uscite sul mercato italiano da poco tempo, e quindi abbiamo iniziato con questa ballad dei Derdian dal loro secondo album, gruppo di symphonic power metal di Milano, album uscito addirittura su etichetta Magna Carta. Gruppo composto da 6 elementi, li abbiamo anche intervistati, nati nel 1998 quando all'epoca proponevano thrash metal e poi hanno spostato il loro sound verso un power metal. L'esordio arriva nel 2005 con l'album New Era Part 1. Questo lavoro gli è valso lo scorso anno un prestigioso contratto con la Magna Carta, che ha pubblicato questo nuovo album New Era Part 2, War of the Gods, che si compone di 10 tracce. La prossima band invece l'abbiamo già proposta e presentata recentemente, visto che da poco è uscito questo nuovo Hate, questo nuovo Super Angelic Hate Bringers, è il quarto album per i Macbeth, altra band milanese che propone un buon gothic metal dal doppio cantato, maschile e femminile, Morena la cantante e Andreas il cantante. Album che si compone anche questo di 10 tracce, è stato anticipato anche da un video. L'album è stato registrato in 3 differenti studi, tutti gli strumenti e le parti vocali presso gli ormai famosi New Sin Studios di Loria in provincia di Treviso. Le parti di synth sono state registrate in Islanda in uno studio privato, mentre le percussioni presenti in alcune tracce sono state registrate a Milano. Il pezzo si intitola 8 Macbeth. chiamano Macbeth dall'album Super Angelica Bringers, il pezzo si intitola Hate. Dopo due band di Milano andiamo a Roma con la prossima, un ottimo lavoro, un ottimo esordio per gli Steel Seal, è un album di debutto, il sound è a metà strada tra il power metal e l'hard rock, line up a 5 elementi nella quale spicca la presenza del bravissimo cantante americano DC Cooper, che ha prestato naturalmente la sua opera dopo aver sentito e dopo essere stato contattato dalla band. L'etichetta è la Underground Symphony, visto che all'inizio il gruppo aveva un cantante, però se n'è andato, convinti del valore delle loro composizioni, hanno contattato appunto DC Cooper e sono riusciti con lui a incidere questo By the Power of Thunder. Questo è il titolo dell'album e noi da questo album andiamo ad ascoltare le note di When the Devil's Call, si chiamano Steel Seal. The river. grande voce, grande bel disco questo per la formazione romana degli Steel Seal, con il cantante DC Cooper, già con Silent Force e anche ex Royal Ant. L'album si intitola By the Power of Thunder, questa era When the Devil Calls. E arriviamo anche per questa sera all'appuntamento con le Metal News. Parliamo degli Obituary, uscirà il 29 di gennaio su Roadrunner Records un best of che si intitolerà semplicemente The Best of Obituary e conterrà 13 tracce. Realizzato il video del singolo Hero, estratto dal nuovo album Sinister Mind per la formazione dei Jared Hart. Per i Toto uscirà il 22 febbraio tramite Frontiers Record l'album solista del chitarrista Steve Lukather. Si intitolerà Ever Changing Times ed oltre a suonare la chitarra si occuperà anche delle parti vocali. Diversi saranno gli special guest. Candlemass e Clawfinger, la Nuclear Blast, ha reso noto che entrambe le band hanno ricevuto una nomination nella categoria Miglior Band Hard Rock per gli awards svedesi che si terranno il 9 gennaio in quel di Stoccolma. E veniamo invece ad una band italiana che ascolteremo tra breve, si chiamano Pathos Ray. È una prog metal band italiana uscita da poco con l'omonimo album di debutto, è stata selezionata per partecipare al prestigioso festival Power Prog di Atlanta che si terrà alla fine di settembre del 2008. Per quanto riguarda la band, è composta da 5 elementi nati nel 2000 con il moniker NDA, con il quale hanno inciso un demo nel 2001. Nel 2002 decidono di cambiare nome nell'attuale Pathos Ray. Seguono diversi anni nei quali suonano dal vivo. Nel 2006 hanno assestato la formazione, hanno registrato un nuovo demo e soprattutto questo album. Lo hanno spedito all'agenzia danese Intromental, esperta del genere e soprattutto nel gestire nuove band metal, e con questo ottengono un contratto con la Sensory Records. Per rendere migliore il sound dell'album, che era stato registrato qua in Italia, viene mixato e masterizzato da uno degli esperti del genere, cioè Tom Jensen, presso i suoi studi personali, Jailhouse Studios in Danimarca. Anche per la copertina si sono affidati ad un esperto, Mathias Nøren, che ha già lavorato per gli Evergrey, ha lavorato per i Camelot e gli Aireon. Con questo arriviamo ad ascoltare proprio una traccia da questo lavoro, dall'album d'esordio dei Pathos Ray. Il pezzo si intitola Strange Kind of Energy. We'll be right back. altro grande prodotto, questo italianissimo, si chiamano Pathos Ray con Strange Kind of Energy. E purtroppo devo dare uno sguardo all'orologio, siamo alle soglie dell'ultimo brano, anche se abbiamo preposto, anzi avevamo preparato anche i Necrodef, Vlad in Tears, Fool's Moon. Ci saranno altre occasioni per proporre anche queste band italiane, quindi tutti di ottimo fattura. Anche il prossimo gruppo, che arriva da Varese, composto da quattro elementi, il sound è un heavy thrash metal progressivo composto dal chitarrista e fondatore Matteo Carnio. Ci sono componenti degli Age of Forever, dei Doomsword, e questi sono, diciamo, vengono assemblati questi personaggi dalle varie band, quindi è soltanto un progetto. Era nato nel 94. Da notare che questo lavoro, Tales of the Grotesque and the Arabesque, è in realtà il terzo album, perché ne avevano già preparati altri due, uno nel 98, Mephisto's Walls, e poi nel 2003 Inferno, ma non sono mai stati pubblicati. Gruppo un po' sfortunato. Finalmente, grazie all'etichetta italiana Dragonar Records, è uscito questo album che sta ricevendo ottime recensioni. Ricordo che suoneranno questo venerdì 14 dicembre al Pepper Café di Comabbio, provincia di Varese, con ingresso gratuito. Vi lascio insieme a loro, si chiamano Fury and Grace. Vi ringrazio per aver seguito il nostro appuntamento di Hard and Heavy del martedì, replicato il giovedì sera. Noi ci ritroveremo logicamente domani. Un grazie al nostro sponsor Mariposa Dischi, un grazie a Simone, il nostro autore. Ricordo che tutti gli appuntamenti di Hard and Heavy li potete riascoltare tramite l'archivio programmi che trovate nel nostro sito www.radiorockfm.com. Da Marco Gravelli è tutto, ciao ciao!